Dunque, io devo salutare tutti a nome del professor Prodi, anche del direttore dell'istituto, che purtroppo non c'è più a Bologna, però è amico di tutti, quindi potete capire quante ragioni aveva anche lui nell'organizzare questa cosa. È un'iniziativa che si scrive, diciamo così, in una lunga storia. Molti membri di questo gruppo sono membri antichi, cioè sono persone che si trovano con una certa relativa frequenza da forse 20 anni, ecco, e quindi questo è molto bello, molto bello, e si trovano secondo una linea di interessi che anche è rimasta sostanzialmente intatta e che amo alcuni diversi diverse componenti. Una di queste componenti è sempre stata l'attenzione appunto alla storia dei concetti, alla storia dei concetti che costituiscono, formano il discorso relativo alle cosiddette scienze dello Stato. Quindi in questo modo noi abbiamo potuto godere di una fruttuosa, uno scambio fruttuoso tra competenze disciplinari diverse, le quali toccano in primo luogo il diritto, sono molti giuristi di noi, storici del diritto, toccano le dottrine politiche, le istituzioni politiche e anche la filosofia. Questi sono stati sempre, fin dall'inizio, i componenti fondamentali, gli ingredienti, no? Di un altro gruppo. Naturalmente mi sembrava un giovane, ma non si dovevano fare, e quindi ci si vedeva più spesso. Adesso siamo diventati più vecchi e anche più impegnati, ci si vedono spesso. Occasioni come questa sono però davvero molto importanti, lo dico anche per tutto storico germanico, che anche sopra questi problemi dei concetti e dell'attenzione per il profilo storico delle scienze sociali dello Stato ha sempre avuto, insomma, qualcosa di molto importante. Io non vorrei dire altro perché non sono neanche preparato, però a titolo personale vuol dire anch'io che questi tre concetti effettivamente ha rappresentato per me uno dei motivi cruciali, insomma, di ricerca. E vorrei solo dire che per quello che mi riguarda noi abbiamo cercato di dedicarci a questo campo, insomma, storiografico, anche in qualche modo con una ambizione e una presunzione di autonomia rispetto a quella che era la vestigista tedesca, come è stata codificata, insomma, dai grandi storici che l'hanno in qualche modo inventata e l'hanno anche messa in pratica, soprattutto costruendo quel straordinario monumento che sono i siti del Conte Greve, ma anche poi con ricerche di grandissimo impegno. Intanto per cominciare noi abbiamo preteso di violare uno dei criteri metodologici fondamentali della vestigista tedesca, che era quella di concentrare l'attenzione sull'esatto Zeit tra metà 700 e metà 800, che veniva considerata appunto cruciale per cogliere le trasformazioni del regime all'età contemporanea, e abbiamo pensato che si potesse invece applicare una metodologia di questo genere anche per età diverse, nel caso specifico nostro, per un'età, in particolare per l'Italia, consideriamo molto modernizzante, qual è quella della post-unità, comunque che vada dall'unità alla prima guerra mondiale e che è per l'Italia in particolare, un po' l'età della formazione della borghesia. Questo è il primo, diciamo così, motivo di differenziazione rispetto a, appunto, al grande modello tedesco. Un secondo motivo, a mio avviso, però questo è una mia personale, è che a noi i concetti, forse a me in modo particolare, i concetti interessano non solo perché è importante studiare la presenza e l'evoluzione di concetti nell'evoluzione della vicenda storica, riconoscendo quindi che la vicenda storica si nutre anche di discorsi e i discorsi sono fatti di concetti e quindi è necessario studiare i concetti per capire i discorsi che hanno accompagnato la vicenda storica. Questo è scontato ed è importantissimo. Io personalmente ho un altro ulteriore interesse per lo studio dei concetti, in quanto ritengo che l'azione dello storico non sia solo di tipo descrittivo, ma sia anche di tipo comprensivo, e che per comprendere sia necessario ricorrere a concetti. Voglio dire anche a concetti nostri, dello storico che agisce e che opera, e io credo che sia per me molto importante denunciare questo punto, e cioè dire non ci interessa solo andare a studiare i concetti storici così come essi erano, ma ci interessa anche cercare di comprendere quali sono i concetti che noi usiamo. Perché forse questo momento dei concetti, del discorso, nell'evoluzione della storia, è proprio il punto in cui più entrano in contraddizione tra loro e si mescolano, appunto, le posizioni dello storico che costruisce e le realtà storiche che lo storico va a costruire. Quindi io trovo nei concetti, nello studio dei concetti, uno dei misteri più fondi, insomma, più delicati dell'attività storiografica. Quindi, da questo lo dico, questa presentazione l'ho fatta perché in occasione dell'ultimo seminario che si era svolto a Trento di storia dei concetti, erano venute in qualche misura delle critiche, no? Comunque erano sorte delle discussioni sul modo che noi impieghiamo di fare storia dei concetti. Insisto nel dire che per me quei concetti non è solo l'introduzione dei concetti antichi, ma è anche attenzione ai concetti che noi usiamo per andare a studiare quelli antichi.